Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, Ristorato e Convento, domenica sera in compagnia delle ragazze che vengono da... Milano, grandissima, per festeggiare una di voi, vero? Ragazzi? Ovvio. Chi è la festeggiata? Io. E come ti chiami? Antonina. E poi abbiamo anche le amiche, abbiamo... Martina. Ok, va bene. Poi? Michela. Aspetta, si deve arrampicare. Michela detta l'arrampicatrice, eh? Esatto. No, veramente? Ah, pensavo, ci ho azzeccato, no? Michela detta Michela. Esatto. E poi abbiamo? Debora, facciamo un applauso a Debora, che è l'organizzatrice, vero? Che vi ha portato fino a qua, in questo posto strano? Come siete rimasti scioccate dal convento? Molto contente. Molto contente? Sì, bello. Davvero? Particolare, no? Lo consiglio a tutti. Ah, lo consigli? Sì. Proprio spontaneamente? Sì. Mi sto divertendo. Che brava. Eh sì, perché abbiamo fatto il giro. Praticamente noi ci stiamo spostando solo a Trenino per il... Così, avete già delle fan, ragazze. Ecco, ci stiamo spostando solo a Trenino. Un altro fan. Scusate, ragazze, siete... io sono contentissima che lei sia contenta, perché è molto difficile... Farla contenta? Esatto. È difficile da accontentare questa ragazza. Ma perché lei giustamente non si accontenta? Non si accontenta. È una ragazza di valore. Ovvio. Giusto? C'è una ragazza di valore, Antonina? Sì. Che valori hai? In questo momento non me ne viene neanche uno. Sono valori alcolici sballati praticamente. Ha bevuto il vino ed è astemia. Ah, davvero? Già. Ma è la prima volta che bevi? No. Ah, però... Da giovane avevi... Ho preso qualche storta e ho detto no. Adesso non fa per te, giustamente. Invece... le amiche stasera tutte sobri, no. Ah ecco, sono la più piccola e la più alcolizzata, sì. Ah ecco, questa è tua figlia praticamente, abbiamo esatto, detto sì. Purtroppo non l'ha avuta, 12 anni ha ereditato questa cosa. Ricordiamo, tua figlia si chiama Martina, la prima che si è presentata, ecco, perché magari qualcuno non si ricorda. Quindi l'hai avuta a 12 anni, esatto. Cioè, sì, esatto, tutto, ma bello che confermate tutto quello che dico. Con chi ti sposi, te lo ricordi? Con Davide. Detto? Davda. Davda, ecco, le amiche sottolineo perché nei momenti intimi ci sono anche loro, giusto? Esatto. Ma, ecco, mi piace questa vostra amicizia così unita che vi unisce in tutto. Quindi, come fate? Lo incitate Davda di solito? Sì, siamo lì a fare Davda, così funziona... Che roba brutta, ne? Fa un po' impressione. Tra l'altro, come così da dire a Davda, ci saranno anche loro nel viaggio di nozze. Ovvio, tra l'altro. Cioè, come dire. Io sto in una valigia. È vero, perché sei piccolina, te. È portatile. E ricordiamo che è quella che si arrampica quando deve parlare al microfono, giusto? C'è anche il tacco 12. Pure! Non è rotto. E ricordiamo a chi ci sta guardando con la webcam che non è in una buca, ma è... No, perché magari dicono l'hanno messa sotto. Quindi, allora, quindi ricordiamo la scenetta. Prima notte di nozze, dov'è che siete in viaggio di nozze? A Dubai, ecco, negli Emirati. Negli Emirati. Ma la cosa bella, sì, è che praticamente all'altare arriviamo tutte. No, veramente? Ma è una sorpresa o... In realtà l'abbiamo scoperto adesso. Cioè, non lo sapevate neanche voi? Lei no, perché è incesto, perché è la sorella. Ma lei è la sorella? Sì, certo. Dell'Antonina? Di Davda. Hai bevuto anche tu? Eh sì, no, mi sono perso un attimo. Allora, quindi Davda non sa nulla, questa è un'anteprima incredibile, ecco. Noi ci presenteremo tutte all'altare. Con l'abito da sposa. In Trenino. E con l'abito da sposa. Facendo anche la musichetta. Pepe, pepe. Fatemela tutte assieme che viene bene. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe. Povero Davda. Quindi lui sarà lì e dirà, vedo quadruplo, ho bevuto. Quando il prete dirà, prendi tu Davda. Ma anche il prete lo chiama Davda? Ovvio. Ma anche lui c'è nell'intimità? No. Ok. Sì, però dirà, vuoi tu Davda prendere Antonina? Sì, ma perché fa così il prete? Cioè, con l'abbraccio tipo... Perché è rapper, è un prete Antonina, rapper. Martina. E Michela? E Davda chissà cosa dirà a quel punto. Sviene. Crepa lì, basta. Ancora la regge, tre è un po' complicato. Sì, no, ma è la prima volta che sento questa storia. Cioè, è un'idea perversissima. Ragazzi, stiamo scherzando, giuro. Cioè? Non ti sposi più? No, mi sposo, ma solo io. Anche perché io sono veramente piccola e non voglio un marito. Martina è piccola, Michele è già sposata e il marito è... Poi Davda è stato uno dei miei migliori amici, quindi. Ah, pensavo uno dei miei migliori amanti, pensavo... No, no, solo amico. Ah, no, ok, quindi non... non... Davda è... No. Tu, la sore... tu, sorella, qualcosa da dire su Davda? È vero che lo spiavi durante la doccia? No, no, no, no, no, no, no. Piace dormire la notte. Probabilmente l'avremo, l'abbiamo anche fatto insieme quando eravamo piccoli. Ah, beh, ma eravate piccolini, no, certo, certo. Ma aspetta un attimo, sorella di Davda, Davdina ti chiamo? metti in guardia la sposa su un difetto di Davda o qualcosa? No, credo che ormai li sappia già tutti da sola. Ah, li sa già tutti? Lei che era amica mia non mi ha avvisato all'inizio, all'inizio. Mai l'ho scoperto di me. No, ma cioè, è scoperto dopo io, se no ti avvisavo prima. Ah, anche tu hai scoperto i difetti dopo? No, ho scoperto che erano insieme dopo. Ah. Ho scoperto che erano insieme dopo. Ah, bravissimo, brava che l'hai richiamata all'ordine. E quindi, cioè, loro non è stata la cosa ti faccio conoscere mio fratello che è figo, no? No, no, no, no. Non è figo? Ma siamo cresciuti insieme. No, ma come non è figo? Allora, aspetta. No, bellissimo. È bellissimo, ecco, ok. Ma siamo cresciuti tutti insieme nello stesso quartiere. Noi tre più mio fratello. Ah, siete proprio amici da una vita. Sì, sì, lei sì. Era troppo piccola, non c'era ancora sul pianeta proprio, ecco. Lei era quasi. Non si dice. No. Non si dice, non si può dire? Davvero no. Ah, non si sa. Però ecco, quindi voi vi conoscete proprio da piccole, un'amicizia che dura da una vita. E Davda da quanti anni? Da quanti anni si è fidanzata con Davda? 12. Ci ha messo un po' a decidersi Davda. Vero, voleva essere sicuro che la cazzata no, ma la faceva benissimo. Ragazzi, se vi fa piacere, tutte le spose che sto intervistando in questo periodo sotto i 10 non vanno, come... Posso dire anche un'altra cosa? Puoi dire che tutto? Che hanno anche due belle bambine. Davvero? Una si chiama Angelica e una si chiama Giada, la polpettona. Salutiamole allora. Non me le saluti? Ciao bamboline mie. Ciao bamboline mie, che tenera, che tenera. Tu non sei la zia? E quindi anche lei ha due bambini. Mi saluti le tue allora di bimbe? No, io due maschi. Ah, i tuoi maschi? Sì. Polpettino e? No. Io i miei amori. E come si chiamano? Ma stanno facendo la nanna. Ah sì, beh, sentiranno la replica magari, che la mamma si è in radio. Si chiamano Nicolas e Leonardo. E non hanno soprannomi loro? Nick e Leo. Nick e Leo, va bene, ciao Nick e Leo. E poi abbiamo... Sì, anch'io ho due bimbi, uno Elenia e Emanuele. E neanche senza soprannomi? No. Così? Ema, sì, tranqui. Hai visto? Che storia? Boh, io saluto Giorgia, la mia migliore amica, perché almeno saluto qualcuno. Così saluti qualcuno. Grandissima. Ragazza, ma voi c'eravate quando lui le ha chiesto di sposarla? No. No, in quel momento, solo quando si accoppia ci siete voi praticamente. Erano in bagno loro. Ma ci racconti un po' così l'atmosfera, cosa ha inventato questo Davda? Siamo andati a cena fuori e non mi dava mai il regalo. In che senso? Mi stavo anche arrabbiando perché io mi ero dato. Ma perché doveva darti il regalo? L'anniversario. Ah, l'anniversario. E dimentico quindi... sempre questo particolare. Ok. Niente, l'ho visto un po' agitato, però poi alla fine mi dice: guarda che il tuo regalo è in macchina. Ah, quella. Va bene. Perché è grosso, andiamo di là e... No, aspetta, attenzione, la ragazza quasi minorenne, sulla macchina è grosso, è scoppiata la risata, ma non riusciamo a capire bene il perché di questo... Di fatto che era il baule. Attenzione, è partita la chiamata, stanno chiamando da casa perché vogliono avere il numero di Davda, perché hanno saputo... No, era nel baule, praticamente io ho aperto il baule, c'era un telo con scritto mi vuoi sposare e la scatoletta in mezzo. No, e io l'ho guardato e ho detto sei sicuro? Ah, così proprio? Eh sì, dopo 12 anni avevo perso le speranze, quindi quando me l'ha chiesto ho detto, sei serio? Che storia! E lui? Lui mi ha detto di sì. E lui era emozionato, io ancora non ci credevo. Non ci credevi? Ero presa a mandare messaggi, a far telefonate e mi sposo. Davvero? Ah, non gli hai neanche risposto? No, hai iniziato detto, a chiamare? No, gli ho detto di sì e il regalo l'ho guardato a casa. Non hai neanche aperto la scatolina? No. Ragazzi, è una cosa pazzesca questa. Ma questo ti dimostra che io non mi interessava il regalo. No, brava, grande risposta, è vero, grandissima. Io l'ho guardato a casa, giuro. Veramente? Sì. Infatti non c'era dentro niente, Aspetta, ma era vuoto. Siccome lui sapeva che tu sei profonda e non ti interessa il regalo, e siccome ha tenuto, come è generoso. Quello è vero. È un po' spiroso? Un po'. Un po'. C'è la crisi, c'è la crisi, c'è la crisi. E quindi ha detto: beh, gli faccio solo la scatolina. Tanto Antonina è una ragazza profonda. Ma e quindi... perché il gesto è quello che conta. Non bisogna guardare le robe materiali. Se c'era il 20 carati era meglio. Ecco. E invece scherzo, dai. Scherzo. Un caratino? Tre caratini? Come non lo so, non me ne intendo, eh. Non lo so neanch'io. Comunque era l'anello. Era la grandezza giusta. Grandezza giusta. Non è quello importante. Esatto, l'importante è l'altra di grandezza, come sottolineava la nostra amica parrucchiera. Ecco, giusto. A proposito di parrucchiera, Antonina, venite, ricorda a bene, al freestyle di Paderno Dugnano. Non è comodo? Non è comodo, ma ne vale la pena, ragazzi. Vi posso assicurare che vi divertirete e avrete dei capelli fantastici. Mi è entrato il jingle proprio. Cioè, cioè da che... Certo, direi che è importante sponsorizzare il negozio dove si lavora. Esatto. Perché voi siete colleghe, ricordiamolo. Assolutamente sì. Quindi diciamolo bene, come si chiama il negozio? Vabbè, figlio, Freestyle a Paderno Dugnano. Qualcuno in zona ci sarà. E siete pregati di venire gentilmente, grazie. Esatto. Chiedete di Antonina e Martina, loro vi sapranno consigliare bene il look, accontentare, mi dicono dalla regia. E dalla regia mi dicono anche che dobbiamo darci un taglio, perché erano 5 minuti per raccontare e raccontarci, sono appena 11 minuti che stiamo chiacchierando. Ma adori. Vi siete accorte? No? Non vi siete accorte? No. Bellissimo, bellissimo. Ora però qui potremmo lavorare un giorno intero in radio? Hai visto? Direi di sì. Sì, siete portate, ma adesso dobbiamo salutare tutti i nostri ascoltatori. Partiamo da... Grazie a tutti, ciao. Da Martina, ecco, sono Martina. Ah, sempre Martina. Ecco, ok, poi? Ciao, io sono Michela. Aspetta, siccome si deve arrampicare, li è andati attraverso il... L'arrampicatrice, ok. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti dalla sposa. Anto? Nina. Ecco, perfetto, Nina. E ciao a tutti da Deborah. Ci risentiremo sicuramente. Torneremo qua. È una minaccia? In questo locale. Sì. Vi aspettiamo. Sì, bisogna fare veramente un complimento a... Che? A te. Ah, sono Sandrino io. Sandrino convento. Vai Sandrino. A me, a tutto lo grande staff. Ecco. Questo è fantastico, venite ragazzi. Grandi, grazie. Venite. Soprattutto da quando Santino ci ha... Santino. Da quando è diventato Santino è partito il processo di beatificazione. Scusa, non siamo al convento? Sì, esatto, quindi Santino era il nome giusto, hai ragione. Scusami. E soprattutto da quando, stavi dicendo? Da quando ci ha preso e coinvolto. No, ma avete fatto tutto voi, vi siete spostati a Trenino per tutto il locale, avete fatto ballare un po' in tutte le sale, avete comunque... Perché abbiamo avuto la giusta compagnia. La giusta compagnia, va bene, ci sto. Grazie ragazze, grazie ciao. A voi. Ciao. Ciao. Ciao. Wow, è stato finito. State ascoltando Ristoradio Convento.